Va ora in onda Non Solo Turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. Buongiorno a tutti i miei radioascoltatori e anche i teleascoltatori, visto che come sempre CRM si può vedere oltre che sentire. Siamo in diretta con la trasmissione condotta da me, Angela Macaluso, Non Solo Turismo, da Trieste in giù e non solo. Siamo in studio con la Proloco, che è Maria Rosa e Raffaella, che oggi parleranno appunto della Proloco, delle attività eccetera nella seconda parte della trasmissione. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Siamo in studio con il nostro carissimo Angelo Arduino, che come sempre ha grandissima pazienza perché sopporta i miei ritardi dovuti al lavoro, e come sempre oggi cominciamo la nostra trasmissione radiofonica parlando del Parco delle Madonie, di uno dei comuni del parco. Oggi è la volta di Gratteri, tra l'altro un altro piccolo gioiello del Parco delle Madonie vicino a Cefalù. In linea tra un po' avremo il sindaco, il vice sindaco del comune, ma prima parliamo un po' della storia di Gratteri, di quello che c'è da vedere, che c'è da fare a Gratteri, perché voi sapete benissimo che il Parco delle Madonie è uno scrigno di storia, di cultura, e qualsiasi paese visitabile può essere vissuto veramente non solo dal punto di vista architettonico e storico, ma anche gastronomico tutto l'anno. Gratteri, come vi dicevo, è un piccolo centro delle Madonie, si affaccia sulla costa tirrenica, si trova vicino Lascari, a metà strada anche tra Campofelice e Cefalù, un paesino bellissimo che a me piace molto, che ci ricorda proprio quei piccoli presepi all'interno di queste montagne meravigliose che sono le Madonie. Sono state avanzate diverse ipotesi sull'origine del nome di Gratteri. Secondo Maurolico, la città di Gratteri, vicino a Cefalù, prese il nome dal monte chiamato Kratos. Kratos o Kraton sarebbe quindi il nome attribuito ai locali rilievi montuosi. In alternativa, il nome potrebbe derivare dal Krati, cioè il torrente che, scendendo da Pizzo di Pilo, attraversa l'abitato. Comunque, come tutte le cittadine madonite, voi ormai conoscete benissimo, perché ogni settimana ne abbiamo parlato ampiamente, le origini di questi paesi sono veramente antichissime. Molti risalgono all'epoca greca, altri addirittura agli arabi, e moltissimi paesi, tra i quali Gratteri, addirittura alla tarda età del bronzo, all'inizio dell'età del ferro. Per cui paesi antichi che conservano una storia meravigliosa. E come sempre in tutti i paesi delle Madonie, attraversati da tantissime civiltà, abbiamo avuto a Gratteri anche la possibilità di conoscere quelle che sono le tradizioni bizantine, perché i bizantini abitarono a Gratteri, così come la dominazione araba nel IX secolo, per giungere poi nell'XI e XII secolo all'arrivo dei Normanni, che toccò anche la città di Gratteri. Che dire di Gratteri come nuovo centro abitato? Vi dicevo, è incastonato tra questi monti, è ben ricco anche Gratteri di piccoli, di monumenti, di chiese, quindi dotato di un bellissimo circuito architettonico e storico. E tra i tanti monumenti vi posso dare qualche indicazione per una bella visita di Gratteri. La Matrice Vecchia, per esempio, costruita dalla famiglia Ventimiglia, questa famiglia che popolò le Madonie lasciando veramente delle tradizioni, oltre che degli insediamenti, perché abbiamo i castelli, abbiamo le matrici dovunque disseminate sulle Madonie. L'abbazia di San Giorgio, per esempio, oppure l'abbazia di Santa Anastasia, che, attenzione, è diversa da quella di cui parleremo tra qualche settimana, che si trova a Castelbuono. Poi la chiesa di Sant'Andrea e tantissime altre. Diciamo che Gratteri, come tutte le cittadine madonite, oltre a essere dotata di monumenti e quindi di una storia meravigliosa, è dotata anche di una ottima gastronomia. Nella seconda parte, o prima di parlare con le ragazze della Proloco, intervisteremo uno dei nostri ristoranti madoniti, che si trova a Gratteri, e intervisteremo in questo caso il Berillo, un piccolo ristorante con il quale parleremo non solo di gastronomia, perché questa trasmissione non è solo una trasmissione gastronomica di turismo, parla anche di problemi, e con il proprietario del Berillo affronteremo anche alcuni problemi legati proprio al turismo, purtroppo dei nostri centri abitati. Tra le tradizioni e il folklore di Gratteri, ricordiamoci che ci sono appunto queste tradizioni delle confraternite che durante le processioni escono con i diversi abiti, con le confraternite sono tantissime, quella del Santissimo Sacramento, Maria Santissima del Rosario, eccetera, eccetera. E poi una serie di piccole feste, la festa per esempio del Santo Patrono, che penso che sia a febbraio, se non sbaglio, ma questo ce lo dirà poi il nostro vice sindaco, il sindaco che più tardi avremo al telefono, e tantissime altre, le Santissime Spine della Corona di Cristo, eccetera. Per cui tanto da vedere, tanto da visitare per un piccolo paesino che, come dico sempre, è un gioiello dei nostri monti. Io adesso vi lascio un attimo con la nostra musica, un po' di pubblicità che come sempre è l'anima della nostra radio. Non abbandonateci, perché tra un po' al telefono avremo un rappresentante di Gratteri e poi parleremo della parte enogastronomica. Eccoci di nuovo in linea, so che siete sempre numerosi e che non ci avete lasciato durante la pubblicità, che come vi dicevo per noi è importantissima, anzi invito sempre coloro i quali ci seguono a fare pubblicità su CRM, perché è una radio ascoltata da tanta gente, ma soprattutto perché la pubblicità su CRM ha un valore veramente positivo per tutte le attività, per cui vi invito a fare sempre più pubblicità all'interno di CRM e P-Radio. Noi parlavamo, per chi si fosse collegato solo adesso, di Gratteri. Oggi è la volta appunto di Gratteri, di uno dei tanti comuni delle Madonie. Abbiamo parlato un po' della storia di Gratteri. Devo correggere una piccola svista a proposito del patrono, il santo patrono delle feste patronali di Gratteri, questa che è dedicato chiaramente a San Giacomo, la cui data della festa non è in inverno come ricordavo io, ma inizialmente sino al 1860 la festa si celebrava il 25 luglio ed era preceduta da un pubblico mercato di almeno 8 giorni. Da quella data, per volontà popolare, la festa fu trasferita l'8 e il 9 settembre di ogni anno, quindi era necessaria una precisazione. E come ogni volta che parliamo di uno dei comuni delle Madonie, noi al telefono abbiamo l'abitudine di intervistare il sindaco, il vice sindaco, che ci parlerà appunto delle tradizioni, ma non solo, ci parlerà della programmazione, di quello che è successo quest'estate a Gratteri, ma anche del turismo, dei dati che loro possiedono in questo momento. Al telefono abbiamo il sindaco Pippo Muffoletto, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto e grazie per aver preso la telefonata, perché so che questo è un orario molto delicato, soprattutto per chi fa amministrazione e poi come lei anche il lavoro di avvocato, quindi ci scusiamo se l'abbiamo disturbata. No, assolutamente, anzi vi devo ringraziare e saluto i radioascoltatori. Noi oggi abbiamo parlato di Gratteri, a me faceva piacere infatti averla in linea e parlare un po' di quella che è la sua esperienza su Gratteri, di quello che sono i dati del turismo, anche raccogliere non solo i lati positivi ma anche qualche critica sul turismo che possa magari spingere i nostri amministratori regionali a dare un occhio in più, un'attenzione in più alle nostre Madonie. Devo dirvi che, se devo limitarmi a questo anno appena finito, il 2012, abbiamo registrato una flessione delle presenze, una flessione dovuta certamente a questa grave crisi che interessa tutto il paese, quindi immagino anche la piccola Gratteri. Non c'è dubbio però che Gratteri continua ad essere un punto di riferimento per un certo tipo di turismo. Il turista a cui piace la quiete, a cui piace la pulizia, a chi piace la bellezza del panorama, i luoghi incontaminati, tante opere d'arte, qualcuna delle quali, ahimè, aspetta da tempo, da lungo, troppo lungo tempo, un intervento di restauro. Colgo l'occasione, ecco, di parlare alla radio per lanciare proprio un messaggio, l'ho fatto anche altre volte. Noi abbiamo un gioiello che è l'abbazia di San Giorgio, in relazione alla quale commissionammo come amministrazione comunale, e poi il Parco delle Madonie fece il resto nel senso di completamento del progetto. Ecco, richiedemmo al compianto Pasquale Culotta, il professore architetto Pasquale Culotta, di redigere un progetto di restauro che abbiamo ormai esecutivo e che aspetta di essere finanziato dalla Regione Sicilia. Questo argomento mi interessa particolarmente perché credo che un bene come quello di cui parliamo, esistono in Italia appena due esempi di insediamento dei monaci premostratensi che fondarono appunto quell'abbazia, ecco, proprio anche per questo, anche in dipendenza di questo, meriterebbe particolare attenzione da parte degli organi regionali preposti appunto al finanziamento di questo tipo di opere. Ma lei nota sempre. Cosa? Ha notato che non c'è la disponibilità o l'interesse? È un interesse che non c'è verso la nostra area o è un interesse? Non credo che sia un problema di interesse verso la nostra area. Io addebito ecco, il fatto alle lungaggini, al di là di ogni immaginazione, ecco, dei procedimenti regionali per l'attuazione delle direttive comunitarie, per spendere il denaro sostanzialmente che proviene dalla comunità europea. Lungaggine senza fine. Peraltro negli ultimi anni la situazione si è aggravata notevolmente, tanto che, per esempio, non si è riusciti, perlomeno per quello che è a mia conoscenza, a spendere una lira per quanto riguarda un'altra branca. Ecco, quella per esempio delle case di riposo per anziani. Io ho un progetto di completamento della casa di riposo per anziani, progetto esecutivo, che in termini di punteggio ne ha avuto talmente tale da essere, credo, il primo nella graduatoria, e che non vedrò l'inizio dei lavori perché io a maggio finirò la mia esperienza di sindaco. E quest'opera rimarrà ancora in attesa appunto che riprendano i lavori per il suo completamento. E tutto ciò, ripeto, lo addebito non a un'antipatia per le Madonie da parte della Regione, non è questo il punto. Il punto è le lungaggini appunto a cui facevo il riferimento e che possibilmente sono un momento rivelatore di poca conoscenza, di scarsa conoscenza della materia di che trattasi. Io questo evidentemente non lo so, quindi. No, ma infatti il mio appunto non era tanto sul discorso di antipatia o simpatia, quanto proprio sul discorso di quasi disconoscere, perché non è soltanto Gratteri che ha questi problemi, ce l'ha un po' in generale, tutte le Madonie hanno questi problemi di progetti non approvati, di lungaggine, eccetera. Quasi come se si sconoscesse o si volesse disconoscere il ruolo che le Madonie potrebbero avere nell'ambito del turismo regionale. Cioè, io ho sempre notato questo. Cioè, magari mettere da parte un po' più noi, non per antipatia, ma forse mettere in secondo piano le Madonie rispetto ad altre aree. Che a seconda dell'area geografica di provenienza dei presidenti della Regione Sicilia che si sono succeduti, si ha modo di notare, mi auguro di sbagliare, ecco, particolari attenzioni verso l'area di provenienza piuttosto che rispetto ad altre aree. Questa sensazione l'abbiamo avuto, però credo che le ragioni vere siano da ricondurre alla lentezza del pachiderma. Devo dire peraltro che noi ci giochiamo in questa area dell'opera veramente meritoria di una entità che si chiama Sosbima, che come lei sa è una società alla quale aderiscono tutti i comuni delle Madonie, oltre che imprenditori privati, che con maestria, con sacrificio, con conoscenza vera delle tematiche e della normativa che regola la materia, ecco, ci assiste, assiste tutti i comuni nell'approntamento dei progetti, partecipazione a bandi, quindi per noi non manca. Ecco, questo invece passiamo invece a un altro discorso, perché io so che lei è molto attivo, tra l'altro la stiamo vedendo in video, per chi non la conoscesse, Angelo Arduino ha messo una sua foto, così abbiamo anche l'idea di, della persona con la quale stiamo parlando. Io so che lei è molto attivo a Gratteri, so che molti, che i cittadini sono molto contenti di quello che lei fa. E volevo parlare proprio di, anche di quest'estate, l'estate già trascorso, del Natale, di come, così come tutti i comuni delle Madonie, ma non solo, dico, si affrontano comunque eventi e una programmazione senza la parte economica, perché voi siete andati avanti comunque anche senza un supporto economico. Noi siamo andati avanti con quelle modestissime risorse di cui disponiamo e per di seguito a una intesa tra i gruppi che compongono il Consiglio Comunale, il gruppo di maggioranza e quello di opposizione, ecco, all'inizio dell'estate abbiamo deciso, proprio per le ristrettezze finanziarie che avevamo e che abbiamo, di prediligere esclusivamente determinati momenti, ecco, dell'estate gratterese. Questi momenti sono il festival di musica antica, che è arrivato ormai, se mal non ricordo, alla quinta edizione, che si è svolto nel mese di settembre con grande soddisfazione, non solo per la presenza di grandi artisti, ma anche per la presenza di pubblico, di un certo pubblico a cui piace una certa musica, che musica antica, rinascimentale, barocca, ecco. E poi delle sagre, ci sarebbe la possibilità di realizzarne chissà quante, però ce n'è una in particolare che ormai è, la possiamo definire storica, che è la sagra della Vastedda Fritta, sì, che è arrivata, sì, non so, alla 35esima, 34esima edizione, che abbiamo ripetuto, e quindi poi le feste di fine anno, che vedono un momento essenziale nella tradizionale storica altrettanto discesa della la vecchia, no? Che scende dalla grotta Grattara e che a dorso di asino, per regalare dolci e regalini ai bambini. Ecco, questi sono i momenti essenziali. I comuni non si possono trasformare in organizzatori di feste. I comuni non hanno questo scopo, insomma, le feste le devono organizzare i privati, le feste le deve organizzare l'assessorato regionale al turismo e allo spettacolo, ecco, ma non certamente i comuni oberati di spese per migliaia di fini non ce l'hanno intanto come fatto istituzionale, ecco, l'organizzazione della festa, ma se a ciò aggiungete che le tasse sono ormai arrivate alle stelle, i trasferimenti dello Stato sono finiti, i trasferimenti della Regione arrivano quando Dio vuole, e si tratta poi di poca cosa, e vi rendete conto che non è possibile pensare a feste e a festini, insomma. Assolutamente d'accordissimo. Io invece però credo di poter dire, dico, a parte poi che lei diceva poco fa che i cittadini mi vogliono bene, certo, ci sono quelli che mi vogliono bene, ci sono quelli che bene non me ne vogliono, come in tutte le amministrazioni, è normale. Però ecco, quello che credo di poter portare, ecco, all'occhiello di avere da ormai da tanti anni offerto a chiunque viene a Gratteri un'immagine di Gratteri come il paese, credo di poter affermare, uno dei paesi più puliti che ci siano, non solo in Sicilia ma in tutta l'Italia. Sì, ho ricevuto complimenti in questo senso da parte di tantissimi visitatori, E per me questo è un grande motivo di soddisfazione. Infatti l'ecosostenibilità è quella che voi sempre avete portato avanti e credo che sia una delle caratteristiche proprio della sua amministrazione. A proposito di questo argomento, le dico che ci è stato cofinanziato per la verità, perché abbiamo dovuto intervenire anche noi con un mutuo che abbiamo contratto alla Cassa Depositi e Prestiti, il rifacimento di tutto l'impianto di pubblica illuminazione, questa volta a LED. Se vi ricordate, se ne parlò qualche anno fa, io avevo indicato un termine entro cui avrei acceso le lampadine a LED, non ci sono riuscito, però ecco, chi verrà dopo di me troverà già questo finanziamento, il mutuo l'ho già contratto e quindi potranno realizzare questi lavori. Peraltro mi è stato anche finanziato, e anche questa volta abbiamo dovuto mettere mani in tasca per coprire nell'intero la spesa, la trasformazione di un edificio di proprietà del comune, che è un ex macello comunale, in museo etno-antropologico, e anche questa opera si farà. Benissimo. Visto che parliamo di opere, io le rubo ancora un minuto. Abbiamo ottenuto in due tranche, due finanziamenti per la scuola, per circa 400.000 euro, e sono in corso le pratiche tecniche appunto per passare alla fase dell'appalto. Benissimo, allora io dopo queste esternazioni che ci hanno fatto capire proprio che è uno dei comuni possiamo dire più attivi, oltre che più ecosostenibili delle nostre Madonie, possiamo lanciare come messaggio, dico molti lo sanno, o qualcuno che ci sta ascoltando adesso magari lo apprenderà ora, che Gratteri comunque è un paese delle Madonie che va visitato ed è visitabile non soltanto in estate, durante la quale magari si organizzano come dovunque degli eventi, ma soprattutto per la sua bellezza, per la sua ecosostenibilità, per il suo rapporto con la natura intatta tutto l'anno. Quindi possiamo invitare coloro i quali ci ascoltano a venire a Gratteri da gennaio a dicembre senza alcuna difficoltà, perché trovano buon cibo, pulizia, come dice lei, anche un'amministrazione attenta ai bisogni di chi vi viene a trovare. Grazie. Grazie a lei, spero di averla magari qualche volta qui in trasmissione per poter parlare anche di queste difficoltà, Angelo Arduino infatti mi sta facendo segnale, è d'accordissimo, magari anche di queste difficoltà amministrative, di turismo sotto un'altra forma, sotto un altro aspetto, visto che abbiamo parlato anche di Sosvima o potremmo parlare di distretto, quindi spero di sentirla presto e di averla qui in studio. Va bene, grazie ancora, buon lavoro, a presto, arrivederci. E noi adesso vi mandiamo una breve pausa, vi lasciamo perché vi facciamo ascoltare una canzoncina. No, facciamo un po' di pubblicità. Non solo turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. In linea per chi si sta mettendo in ascolto in questo momento, oggi abbiamo parlato di Gratteri, abbiamo intervistato anche il sindaco Pippo Muffoletto che ci ha parlato dei tanti progetti in itinere ma anche di quelli realizzati, ci ha parlato proprio di Gratteri, di come un invito ad andare a Gratteri tutto l'anno per trascorrere piacevoli giornate o piacevoli settimane. E noi adesso siamo arrivati alla parte enogastronomica delle Madonie e voi sapete che abbiamo l'abitudine di intervistare un ristorante e farci parlare appunto non solo della gastronomia ma anche probabilmente dei problemi che si incontrano in queste Madonie, quindi turisticamente parlando. E oggi in linea per Gratteri abbiamo, mi pare si chiami Angelo se non sbaglio, Angelo Matassa, proprietario del ristorante Il Berillo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci scusi per l'orario, perché questo sarà l'orario in cui voi preparate, ma mi faceva piacere, a proposito di Gratteri, di intervistare uno dei ristoranti più rappresentativi della zona e parlare con lei un po' di tutto. Abbiamo pochissimo tempo, perché sennò dalla regia mi uccidono, però dico, se concentriamo in un paio di minuti non solo la pubblicità del suo ristorante, di quello che possiamo degustare nel minuto in cui vi veniamo a trovare, ma anche di eventuali problematiche riscontrate all'interno del turismo di Gratteri e dintorni, certo, mi farebbe piacere. Sì, è ovvio, la ristorazione è una delle branche che forma il turismo, quindi l'offerta turistica. Io faccio il ristoratore da 3 anni, ho iniziato questa avventura giusto 3 anni fa, benché ho sempre lavorato nel settore. Direi bene per quanto riguarda la ristorazione. Ci sono 3, mi sembra, ristoranti operativi a Gratteri, quindi sicuramente l'offerta ristorativa non manca di sicuro. Però è anche vero che la ristorazione da sola non ce la può fare, perché per fare turismo la ristorazione non basta, quindi mi riferisco a tutta una serie di condizioni per far sì che il turismo si possa avvenire e quindi svilupparsi. Questo cosa dire? Direi che per me Gratteri è un paese in cui ho sempre creduto, essendo il mio paese, però io ritengo che bisognerebbe sviluppare un certo tipo di turismo, quindi puntare, mi riferisco al turismo sostenibile, al turismo relazionale. Ormai il turismo di massa non è soltanto l'unica forma di turismo che viene chiesta dal turista moderno. Assolutamente. Gratteri è il paese che più si addice, uno dei paesi che più si addice della nostra zona ad essere interpretato sotto questo aspetto. Che cosa manca secondo lei affinché questo turismo relazionale o questo turismo d'élite possa decollare? Che cos'è che secondo lei potrebbe essere fatto? Che cosa non è stato fatto? Non è stato fatto. Non è che bisogna parlare qua di cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Come io la vedo, secondo me bisognerebbe studiare, creare le basi perché ciò avvenga. Mi riferisco, non lo so, per esempio ci sono delle case albergo a Gratteri, la ricettività è molto limitata a Gratteri, addirittura uno degli alberghi che avevamo purtroppo è chiuso, quindi oggi abbiamo soltanto poche disponibilità, ci sono un paio di B&B e poi abbiamo una serie di case albergo. Quello che manca secondo me è un'entità, che sia privato o pubblico, questo non sta a me dirlo, che raccolga tutte queste unità abitative e sotto un'unica gestione, per esempio, in modo tale che si possa assieme offrire una cosa certa. Già questa è un'ottima indicazione, perché per chi ci sta ascoltando, ma anche per i vostri rappresentanti, io penso che possa essere un'ottima indicazione, un suggerimento anche da parte di qualche giovane che possa formare una cooperativa e magari poter gestire, come dice lei, tutta la ricettività di bed and breakfast, certo, o appartamenti che avete a Gratteri. Quindi già questo è un ottimo suggerimento. E poi servizi intesi come offerta turistica. Abbiamo la Grotta Grattara, che è una delle cose più belle che abbiamo qua nella zona, però andrebbe valorizzata. Immagino, penso alle chiese, abbiamo 7 chiese come voi avete detto prima, di cui in una, magari sono in pochi quelle che lo sanno, ma in una sono custodite le 4 spine e mezzo della corona di Gesù, e in un'altra ci sono le tombe dei Ventimiglia. Purtroppo questo è poco conosciuto dalla maggior parte delle persone, e spesso le chiese, anzi molto spesso le chiese sono chiuse. Io per esempio immaginerei la possibilità di avere le chiese aperte, magari con qualcuno che ti possa portare, ti possa spiegare cosa c'è. Parlerei dell'abbazia di San Giorgio. L'abbazia di San Giorgio è fantastica, è un'abbazia dei premostranensi del 1100 che abbiamo a poche centinaia di metri dal centro abitato, però purtroppo ci vuole anche lì, ci vorrebbe un, non lo so, un servizio navetta, comunque dare la possibilità di usufruire di quel, di quella fantastica bene, abbiamo dato, penso, già abbastanza indicazioni. Intanto stiamo vedendo, perché come ben sapete CRM è anche la radio che si vede, stiamo vedendo la sua foto per chi non la conosce, e io, siccome non ho molto tempo, mi piacerebbe approfondirlo questo argomento di gratteri, perché poi è un problema che è comune nelle Madonie, non è soltanto vostro. Certo. Il problema, quasi tutte le Madonie hanno il problema delle chiese chiuse, di itinerari non valorizzati, quindi magari avremo modo di riparlarne. Io però ma di questo mi perdoni, dico solo una cosa, di questo io trovo, non ho trovato abbastanza presente, forse da questo mio, una mia cosa personale, il distretto turistico. Il distretto turistico dovrebbe secondo noi valorizzare questo aspetto del turismo della nostra zona. Guardi, io non so se lei mi sta vedendo, perché forse non mi sta solo ascoltando, io qui con me ho Fabio Coco, che sarà nell'ultima parte della, oltre a essere un amico, è stato un, tra virgolette, collega dell'inizio della creazione di questo distretto. Preferisco sulla parte distretto stendere in questo momento un velo pietoso. Ridevamo proprio per questo, perché purtroppo in Sicilia non è soltanto, non è le Madonie, non è solo il distretto nostro. Questo da un certo punto di vista mi solleva un po', dall'altro mi deprime. È un problema proprio della Sicilia, cioè noi stentiamo a partire con, non solo con i distretti ma anche con l'associazionismo eccetera, perché tendiamo a vedere le cose privatamente, come se non fosse una società e quindi un gruppo di persone che deve lavorare assieme. Dobbiamo, quindi questo magari ne riparleremo. Sì, dobbiamo lavorare tutti assieme. Esatto. E lavorare verso un unico obiettivo, che è quello. Questo ne riparleremo, perché mi sono ripromessa con le mie guardie del corpo, chiaramente, di portare qui tutti i responsabili del distretto per cercare. Fabio giustamente non mi invidia, ma vorrei proprio parlarne apertamente, forse per definire una volta per tutte che cosa se ne vuole fare di questo distretto. Io invece, per gli ultimi secondi che ho a disposizione, perché l'avevamo chiamata per questo, vorrei che lei facesse pubblicità al suo ristorante, quindi che mi dica dove si trova, come contattarla, e soprattutto, visto che parlavamo di enogastronomia, qual è il piatto tipico. Poi magari se ci dà anche la ricetta al veloce sarebbe anche meglio. Beh, il mio ristorante si trova a Grattere, nella parte alta, lungo la strada provinciale che da Gratteri porta a Gibilmanna. È un ampio locale, tutto con vetrate, stile rustico, quindi cucina sicuramente del territorio, magari rivisitata con qualche divagazione mia personale sul tema. Qual è il piatto, magari è una domanda assurda perché magari ne avrete tantissimi, però magari il piatto caratteristico, quello che è il piatto di punta di questo ristorante? Ma non lo so, mi viene da pensare i nostri antipastini tipici, mi viene da pensare il mio caciocavallo all'argentiere, mi viene da pensare il mio filettino di maiale in salsa di cipolle dolci di Gratteri, la famosa cipolla di Lortera, che è una cipolla che si coltiva a un chilometro dal mio ristorante e che è una cosa che si trova solo a Gratteri, una cipolla molto dolce, succosa. Si trova proprio qui. Senta, un'ultima cosa, numero di telefono per contattarla se c'è un giorno di chiusura? Sì, il telefono è 388-6927569, poi abbiamo anche il nostro sito internet che è www.ilberillo.it, siamo presenti su Facebook. Giorni di chiusura è il martedì, benché per adesso siamo chiusi questo periodo proprio di invernale così tosto, siamo chiusi dal lunedì al giovedì, quindi apriamo soltanto il venerdì, sabato e domenica, oppure se ci sono eventi su prenotazione. Faccio intervenire una persona che mi ha chiesto di parlarle. Bene. Signor Matassa, buongiorno. Fabio Coco. Lei dimentica però di dire del panorama mozzafiato. Ah, ragione. Perché dico, quella è la cosa che sicuramente colpisce di più a chi arriva e ancora non ha avuto la possibilità di assaggiare le sue prelibatezze. Sì, dico, lei ha ragione. C'è un panorama La ringrazio per averlo ricordato. Sì, la posizione del nostro ristorante è invidiabile, perché da qui si gode un panorama, come dice lei, mozzafiato fino a perché Angelo è sempre attento, ci posta tutte le foto. Ma Angelo è un grande Arduino, sì. Quindi è uno dei postigini più interessanti della zona anche. Bene. D'estate si può mangiare all'aperto, la gente vuole mangiare qui in veranda, fuori è una cosa molto apprezzata. Angelo, noi sicuramente ci risentiremo per altre cose, io intanto purtroppo devo salutarti perché tu devi preparare, noi qua stiamo per finire la trasmissione dobbiamo intervistare Proloco e Fabio Coco, e quindi bene. Io ti saluto momentaneamente con la promessa che ci risentiamo per portare avanti altre iniziative. Perfetto, grazie a tutti, buona giornata. Un bacio e a presto e buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi. Arrivederci. Anche da parte di Angelo Arduino ti saluta. Grazie, grazie. Ed ora non ci lasciate, perché c'è la parte più simpatica, perché è quella dell'intervista dei nostri ospiti, Fabio Coco, Maria Rosa e Raffaella, scusami, dimentico sempre. Vi lascio con un brano momentaneamente, con un brano di Francesco De Gregori, Non abbandonateci, perché poi dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo. cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via. Non solo turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. Ed eccoci nuovamente in linea per l'ultima parte della nostra trasmissione. Prima di intervistare la Proloco di Cefalù, io poco fa, a proposito di gratteri, perché oggi abbiamo parlato di gratteri, dovevo darvi anche un avviso. Si svolgerà il 3 febbraio la ormai consueta premiazione annuale denominata Volanti d'Oro. La manifestazione, indetta dal sito internet siciliarally.it, è capitanata da Italia Grandi Eventi, anche nella sua nona edizione manterrà il carattere itinerante, spostandosi nelle Madonie a Gratteri in provincia di Palermo. Il luogo prescelto, tra l'altro, è ricco di storia, come abbiamo detto oggi, perché è di proprietà di Angelo Matassa, famoso chef del VRC, in forza al team Grifone e Step 2 fino ad un paio di anni fa, il quale accoglierà tutti i partecipanti presso il suo ristorante Il Berillo. L'abbiamo appena intervistato, quindi sappiamo tutto del Berillo. È trasmessa in diretta chiaramente dalla nostra super radio CRM. E io adesso mi sposto per l'ultima parte della trasmissione. Voi sapete che da qualche settimana ho introdotto due nuove rubriche all'interno della mia trasmissione Non Solo Turismo, una dedicata proprio all'associazionismo cefaludese, quindi dando la possibilità a un'associazione di volta in volta di presentarsi e presentare proprio la programmazione, chi sono e cosa fanno, e in questo caso oggi ho l'onore di avere qui la Proloco di Cefalù. E l'altra parte, l'ultima, quella di anziché parlarne io dei luoghi che sono al di là della Sicilia, che tutti conosciamo, di far parlare di luoghi non solo italiani ma anche esteri direttamente dalla voce dei viaggiatori. E oggi per questa parte ho un amico carissimo che è Fabio Coco, che ci parlerà del suo viaggio di nozze, chiaramente della parte storica e naturalistica del suo viaggio. Intanto parliamo con, ho davanti a me, voi le vedete per chi ci sta seguendo in video, Maria Rosa e Raffaella, sempre io. Raffaella, voi siete rappresentanti chiaramente alla Proloco di Cefalù. È d'obbligo inizialmente dare un po' di indicazioni. Quando nasce la Proloco, o quantomeno più o meno? Allora, innanzitutto buongiorno, grazie Angela per l'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dunque, la Proloco ha una storia di per sé breve, un po' complessa, ma sicuramente insomma stiamo andando avanti. Sono circa 2 anni che la Proloco è presente a Cefalù. Prima era presidente il nostro amico Fabio Coco. Dalla fine di ottobre ho preso io in mano insomma le redini della situazione, ma sono supportata da validissime collaboratrici e collaboratori, per cui abbiamo cercato subito di riaprire un po' le attività, e soprattutto con il Natale abbiamo cercato di proporre una serie di eventi e di questo adesso infatti ne parleremo, perché un'altra domanda era chi è rappresentante della Proloco. L'hai detto, sei sì. Tu sei il nuovo presidente della Proloco. Una domanda sempre di rito per capire, per inquadrare un po' l'associazione, quindi in questo caso la Proloco, è quanti soci in generale, insomma, quante persone più o meno avete all'interno della Proloco? Allora, abbiamo tante persone all'interno della Proloco. Fra breve ci saranno aperte le iscrizioni, per cui contiamo di avere anche nuove iscrizioni, anche perché è nostro scopo cercare di introitare all'interno appunto dell'associazione quante più persone possibile, perché la Proloco comunque è l'associazione di città, quindi cerchiamo di, vogliamo avere supporti, idee, persone che possano farci crescere e quindi possano anche allargare quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti eventualmente e quant'altro. Bene, a questo proposito proprio di progetti si parlava, una domanda che io faccio sempre è, tra i tanti progetti, perché so che comunque la Proloco, come tutte le associazioni, ha fatto tantissimo, continua a fare tanto, io vabbè, mi ricordo anche di voi, della vostra disponibilità in occasione dello Sherbet, ma non solo, degli itinerari creati, questo mi ricordo abbastanza bene, ma qual è secondo voi, tra i tanti progetti che avete fatto in questi anni, quello che vi ha dato maggiori soddisfazioni o che è risultato meglio, insomma, qual è quello che vi è rimasto più impresso tra i tanti progetti fatti? Beh, diciamo che ogni progetto è stato a noi caro. Io ricordo che all'inizio c'era stato tanto entusiasmo per la creazione di tante cose. Mi ricordo che per esempio quando si cercò di organizzare l'accensione della stella dopo tantissimi anni che non veniva fatto per il Natale, abbiamo cercato di dare tutti una mano e forse perché appunto anch'io ho partecipato, quello mi è rimasto molto impresso, per esempio, forse perché era uno dei primi a cui anch'io partecipavo. Tu hai citato lo Sherbet, questo è una cosa a me molto cara, a me e anche agli altri, perché comunque è stato veramente un servizio bello, è stato un servizio che la gente ha recepito e ha apprezzato moltissimo. Per cui se ancora oggi si parla di Cefalù e dello Sherbet e di una certa parte dello Sherbet, forse questo è stato anche grazie a noi. E quindi anche questo è stato veramente a noi molto caro. E poi devo confessare che le manifestazioni dell'ultimo Natale ancora oggi vengono, ci sono persone che ci fermano, ci ringraziano, ci telefonano, ci mandano i messaggi su Facebook, le mail, e noi siamo veramente molto gratificati da questo, anche perché la migliore gratificazione in assoluto che possiamo ricevere è l'attestazione e la gratificazione delle persone. Assolutamente, quello ripaga sempre. E invece abbiamo parlato del Natale, lo Sherbet, avete qualche progetto in cantiere? Allora, ma non sveliamo mai no, i particolari, non sveliamo in generale. Anche perché sono in fase di progettazione per cui non potrei svelare assolutamente niente, però decisamente ce ne sono tanti. Dobbiamo anche cercare di ragionare, perché siamo abituati a fare le cose in modo ragionato, per cui non vogliamo assolutamente fare insomma delle corse nel progettare i nostri eventi. Vorremmo anche cercare di allargare questi eventi in modo tale che Cefalù insomma riesca a captare, con le nostre anche piccole manifestazioni, la gente che viene appunto qui in visita, e essere da supporto naturalmente a quello che ci auguriamo venga sviluppato come circuito turistico. Perché sarebbe una delle nostre aspirazioni sicuramente. Ma quello anche perché Cefalù ha tutte le potenzialità, forse molte di queste inespresse, o non gli si è mai data la possibilità a chi ha le potenzialità di poter far emergere questa città. Quindi io credo molto in questa avventura di questi mesi, insomma, di questi contatti che ho avuto con le associazioni, anche con voi, mi sono resa conto che c'è una parte della città che ha proprio voglia di riscattarsi da questo assenteismo, perché io dico sempre che Cefalù ha vissuto fino a qualche anno fa come se, dico sempre al riflesso del passato, come se noi non avessimo bisogno di nulla, non tenendo conto, come sappiamo tutti, che il turismo cambia, che è sempre in fase di cambiamenti, adattamenti alle nuove situazioni, e quindi il turista non necessariamente deve venire a Cefalù perché ha altre mete a disposizione, pochi soldi e poco tempo. Quindi deve stare a noi, dovrebbe stare proprio all'associazionismo e comunque ai volontari, il creare eventi che non ci vengano imposti dall'alto, ma creati da noi e portati avanti e magari con una... Decisamente, è anche il modo per far emergere anche tante capacità e tante Brava. Qualità che magari rimangono nascoste e che invece riescono a dare tanto. Io mi sono accorta nel preparare tutti noi le varie attività del Natale, molte persone ci hanno dato una mano d'aiuto, non addirittura non iscritte all'associazione, ma sono state preziosissime e veramente importanti. Quindi questa che tu sottolineavi è sicuramente una delle cose da sviluppare. Soprattutto è da sviluppare ancora di più l'associazionismo. Questa è un'altra domanda, poi so che tu hai un impegno, sono i bimbi da andare a prendere andare a scuola, quindi ti lascio andare, però volevo capire come reclutate, anche se non è magari la parola giusta, i vostri soci, cioè, cosa fate per poter avvicinare la gente e farla avvicinare alla vostra associazione, quindi alla vostra... Beh, al allora, vostro gruppo. Noi adesso appunto riapriremo le iscrizioni e speriamo che questo che queste cose appunto che abbiamo organizzato risultino un bel volano per riuscire a reclutare delle persone. Devo dire che personalmente mi hanno fermato per avere informazioni su come aderire alla Proloco e quindi questo mi entusiasma perché significa che la gente vuole partecipare. Quindi magari di visto ecco, che c'è questa possibilità. Sì, sì, noi faremo una riunione il domenica 26 alle ore 18. Domenica 27 alle ore 18 alla Sala delle Capriate. La riunione è appunto per illustrare anche un po' quelle che sono le nostre intenzioni per quanto riguarda i nuovi iscritti, per cui chi volesse partecipare è liberissimo appunto ed è invitato a farlo. Quindi l'appuntamento è con la Proloco per le 18 di domenica 27 alla Sala delle Capriate. Tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, io so sempre che non ci avete abbandonato nonostante l'ora critica del pranzo, andate alla Sala delle Capriate perché sono delle persone veramente molto importanti per Cefalù, perché comunque la Proloco dovrebbe essere un supporto, tra virgolette, tecnico a quello che sono le attività del turismo e degli eventi a Cefalù, per cui andateci, iscrivetevi, sono persone che hanno molta buona volontà, io le ho viste all'azione anche soprattutto per il Natale, carnevale ancora non da venire, quindi ancora non sappiamo cosa faremo, però andateci, iscrivetevi e dategli idee e supporto perché meritano veramente di essere supportate in questa città che a volte tende a nascondere la gente che ha un valore. Grazie Angela, grazie Ma mille. Io vi abbraccio, vi ringrazio per essere state qua, soprattutto perché è tardissimo per te e per i tuoi bimbi, noi ci vediamo, ci sentiamo nel pomeriggio per altre cose. E buona giornata. Magari a tutti. La prossima volta che vi invito mi direte che si sono iscritte 100 persone, quindi magari questo sarà importante per me. L'ultimo appuntamento, se non vi lascio con nessuna pubblicità e con nessuna canzone, proprio perché siamo in ritardo, è con il nostro amico Fabio Coco. Buongiorno Angela, Fabio. Buongiorno a chi ci ascolta. Fabio, io l'ho conosciuto in occasione del distretto, ragazze ciao, buona giornata, l'ho conosciuto in occasione del distretto, ma non parleremo di distretto, ma parliamo dell'ultima parte della mia trasmissione che è dedicata alla voce, direttamente alla voce dei viaggiatori di un'area che si è visitata. E io ho voluto Fabio qua perché Fabio è andato in una delle mete che io adoro, che sono gli Stati Uniti, il suo viaggio di nozze, volevo con lui parlare di questa meta. Poi tu hai fatto Stati Uniti e Caraibi. Sì, io intanto con vergogna devo dire che era la prima volta che sono andato all'estero, per cui è stata un'esperienza sicuramente nuova, intanto rapportarsi con persone che sono dall'altra faccia del globo, quindi vedere come il turismo viene gestito, il viaggiatore viene gestito dalla parte diametralmente opposta rispetto a Cefalù e all'Italia in generale. E devo dire sono rimasto colpito intanto dal clima, dall'empatia con cui gli operatori del turismo statunitensi si rapportavano con noi, si rapportavano con gli altri. E devo dire che simpaticamente ci salutavano, ciao italiani, perché eravamo comunque un gruppo di diverse coppie, abbiamo avuto modo di ritrovarci lì, eravamo 6 coppie. Per cui ogni volta che ci vedevano passare sulla nave, per quanto riguarda la crociera a terra, quando avevamo modo di fare le varie escursioni, ci salutavano simpaticamente: italiani, buongiorno. E questa è una cosa che mi faceva molto, molto piacere. Qui probabilmente non abbiamo ancora questa sensibilità del turismo relazionale, come giustamente faceva cenno prima il signor Matassa, che altrove c'è e credo già sia consolidata da tempo, perché alla fine al viaggiatore rimane sì l'immagine del luogo che visita, ma credo rimanga anche traccia e memoria del rapporto che hai con le persone che ti aiutano a fruire di quel posto. Infatti, guarda Fabio, il mio volere è qua i viaggiatori, e quindi far raccontare una meta attraverso le immagini che gli sono rimaste impresse, la loro voce, la loro esperienza, non è tanto quella di parlare di New York in questo caso o dei Caraibi, che magari sì, si può anche accennare a qualcosa, eccetera, ma è più che altro quello che hai centrato tu adesso, cioè il relazionarsi e il vedere le cose positive e negative di un altro luogo, da cui trarre spunto, o magari trarre spunto anche in negativo, di dire non fate questo perché allontana i viaggiatori, oppure sono riusciti a fare quest'altro, come in questo caso le relazioni fantastiche che gli Stati Uniti, e ti posso dire, perché io lavoro con gli americani, so che per loro il turista è sacro, cosa che noi non abbiamo ancora capito, instaurano. Quindi hai centrato proprio l'argomento, che anche se stiamo parlando di New York o dei Caraibi, la cosa importante è che già abbiamo notato una grande differenza. Sì, assolutamente sì. Devo dire che questa è una cosa che in effetti mi ha colpito molto. Quando mi ha contattato Angela, quando mi hai contattato per chiedermi cosa mi fosse rimasto più impresso del mio viaggio, divagavo con la mente tra i servizi a terra piuttosto che le bellezze naturali che magari poi ho avuto modo di vedere ai Caraibi. Però poi ragionandoci un attimino ben detto, ma a me cos'è rimasto di quel viaggio? Sì, i luoghi, sì, il fatto di aver fatto del primo gennaio trovarmi in spiaggia a prendere il sole, a farmi il bagno. Ho visto le foto su Facebook che ti ho invidiato. Quello indubbiamente, però poi in effetti mi ricordo con piacere le persone con cui sono venuto in contatto in quei giorni. Mi riferisco sia al personale di bordo delle navi da crociera, che riuscivano anche a ricordarsi il nome delle persone, di noi che avevamo le stanze lì sulla nave. Dico, qui, infatti sono piccole cose che al viaggiatore restano impresse. Assolutamente sì. Cioè tu magari li puoi portare in posti, non dico terribili, però poco fa tu al telefono mi accennavi a un luogo che magari non consiglieresti, però poi tu non ricordi tanto quel luogo quanto la gente che ti ha fatto sentire a casa, quindi tu porti a casa appunto, come diceva Angelo Del Berillo, la relazione, l'esperienza umana, non porti tanto a casa il luogo. Sì. Anche perché magari per curiosità questo luogo che non vorresti mai suggerire, lo possiamo anche dire qual è? E allora, non voglio essere così cattivo, però devo dire che la Giamaica, perché durante la crociera abbiamo toccato come ultima meta l'isola della Giamaica e la località di Ocho Rios in particolare, devo dire che mi ha colpito molto per l'ambiente è bellissimo. Siamo stati sul Mystic Mountain con una funicolare, cosa che qui peraltro credo sia impossibile da concepire, ora mi bruceranno vivo come un eretico. Però devo dire che lì è stato bello andare con i piedi sopra le cime degli alberi per raggiungere poi la vetta di questa montagna, che comunque dava un paesaggio spettacolare. Però la gente del luogo, insomma, lasciava un po' intimorito, perché non riuscivi veramente a distinguere il buono dal cattivo, che magari ti avvicinava per chiederti se volevi souvenir o insomma altro. Sì, infatti mi ricordo che il personale di bordo ci ha suggerito di fare un'escursione seguita da qualche guida, magari quantomeno in Giamaica, perché insomma lì può essere facile fare cattivi incontri. Senti, io invece prima di salutarti, perché abbiamo meno di un minuto, però abbiamo parlato anche di una cosa che mi interessava invece proprio puntare l'attenzione. Tu mi hai parlato di portualità, perché ti è rimasta qualcosa impressa? Assolutamente sì. Dico, qui a Cefalù, per quanto riguarda il turismo nautico, sia esso diportistico, crocieristico, insomma, siamo anni luce indietro, anche perché quantomeno abbiamo una bozza di struttura, chiamiamola così. Sia in Messico che in, no, pardon, nel Gran Cayman che a Ocho Rios, le navi da crociera riuscivano ad avvicinarsi e quindi fare sbarcare i turisti a terra tramite dei pontili, sì, in cemento, che possono essere anche galleggianti, dico, nell'ottica di una progettazione per Cefalù. Però non c'erano chissà quali strutture, dico, qui magari ci stiamo arrovellando sul discorso porto come siamo abituati a vederlo, magari a Riposto piuttosto che a Porto Rosa o a Sant'Agata, uno degli ultimi porti che è stato perfezionato e realizzato in Sicilia. Lì con pochissimo riuscivano a far arrivare a terra migliaia di persone, a creare un indotto economico notevole, perché ricordo che quel flusso di gente che arrivava a terra, che poi si riversava nel negozietto di cose tipiche piuttosto che in quello di souvenir o di cose che vendono da qualsiasi altra parte del pianeta, lì veramente creavano economia. E devo dire che c'erano tantissime donne che lavoravano nel settore dei trasporti, mi riferisco al taxi piuttosto che al minibus, e con piacere vedevo che veramente c'è un'occupazione notevole. Sì, infatti diciamo che il turismo croceristico è uno dei turismi che in questo momento va in rapida ascesa. Sì, e credo che per Cefalù possa essere qualcosa di veramente importante, perché lì abbiamo visitato posti dove non c'era nulla, se non, per carità, delle spiagge bellissime, ma qui oltre alle spiagge bellissime abbiamo anche un centro storico che credo sia invidiato da Ma guarda, da Fabio, noi siccome siamo in chiusura, magari questo discorso lo riprendiamo, perché ma io vorrei... se tu vuoi già da ora dirti che venerdì prossimo, se puoi avvicinare anche 5 minuti, sempre nella parte dei viaggiatori, riprendiamo proprio questa situazione della portualità, perché è una cosa che a noi interessa molto. Quindi io, siccome siamo in ritardo, do l'appuntamento a venerdì prossimo, vi saluto.